Vera povertà, il regno del Signore dentro lui presente già. Per voi che siete tristi senza senso nella vita, c'è un Dio che può donarvi una speranza nel dolore. Beati voi, beati voi, beati voi, beati. Possiedere d'un giorno questa terra, dice Dio, voi che desiderate ciò che Dio vuole per noi, un infinito all'alba pioverà dentro di voi. Beati voi, beati voi, beati voi, beati. E quando nel tuo cuore nasce tanta compassione, è Dio che si commuove come un bimbo dentro te. Beati quelli che nel loro cuore sono puri, già vedono il Signore totalmente anche qua giù. Beati voi, beati voi, beati voi. Soffre per amore, sa morire oggi per lui, riceve il regno subito e la vita eterna in sé. Beati voi, beati voi, beati voi, beati. Se poi diranno male perché siete amici suoi, sappiate che l'han fatto già con lui prima di voi. Se poi diranno male perché siete amici suoi, sappiate che l'han fatto già con lui prima di voi.